Mix 24, musica e storia. Bentornati su Mix 24, musica e storia. Io sono Alessandra Fiori e qui c'è lui. Ciao, sono Franco Schipani, bentornati. Ciao Alessandra. Franky. Ciao ancora, allora. Franky. Allora Franky, siamo nel 2005. Siamo nel 2005. Sei contento, vero? Vuoi sapere chi c'è al numero uno in classifica nel 2005, il brano più di successo? Eccolo. Tutti i bambini fanno oh, dammi la mano, perché mi lasci solo? Sai che da soli non si può, senza qualcuno nessuno può diventare un uomo. Per una bambola un robot, bot, bot, magari litigano un po', ma col ditino ad alta voce, almeno loro, fanno la pace. Così ogni cosa è nuova, è una sorpresa, e proprio quando piove, i bambini fanno oh, guarda la pioggia. Quando i bambini fanno oh, quando i bambini fanno oh, questo è Povia. Inizialmente questa canzone è stata presentata e selezionata per far parte appunto del Festival di Sanremo del 2005, però ecco, tra le nuove proposte fu eliminata dalla rosa delle canzoni concorrenti perché era già stata eseguita. Aia. E quindi era proprio una aia, violazione delle regole fondamentali di ammissione al festival. Però è andata piuttosto bene. È andata molto bene, grandissimo successo, pensa, numero uno in Italia per 20 settimane, di cui 19 consecutive, e ha preso 7 dischi di platino. Ecco, pur non partecipando alla gara canora, è stata scelta poi come colonna sonora per la campagna di solidarietà a favore dei bambini del Darfur, avamposto 55, che è stata presentata all'organizzazione al Teatro Ariston proprio durante il Festival di Sanremo. Ecco, io ti vedo un po' lanciato sul festival, ma prima di entrare a Sanremo, Franco, dobbiamo parlare di un evento, di un giorno storico del 2005, perché il 2 aprile succede questo. Carissimi fratelli e sorelle, alle 21:37 il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre. Preghiamo per lui. Giovanni Paolo II era Papa dal 1978, aveva 84 anni ed era stato ricoverato al Gemelli di Roma prima per una ricaduta influenzale e poi operato d'urgenza di tracheotomia. Era uscito dall'ospedale la sera del 10 febbraio e le sue condizioni di salute erano molto più che precarie. Infatti per la prima volta, il 25 marzo del 2005, il Papa non partecipa alla Via Crucis. Ma sentiamo come affrontava la sofferenza fisica nel ricordo di Joaquín Navarro Valls, medico, giornalista e direttore della sala stampa della Santa Sede fino al 2006. Quello che lui voleva era che quei limiti fisici non fossero un ostacolo a quello che era la sua missione, a fare il Papa. Il moto della sua anima era la sua missione. Tutto quello che fosse un ostacolo bisognava lasciarlo. I funerali del Papa si svolgono l'8 aprile del 2005 in Piazza San Pietro e a officiare la cerimonia c'è il cardinale tedesco Joseph Ratzinger. Seguimi. Questa parola lapidaria di Cristo può essere considerata la chiave per comprendere il messaggio che viene dalla vita del nostro compianto ed amato Papa Giovanni Paolo II. Ecco, e pochi giorni dopo, il 19 aprile del 2005, proprio Ratzinger è eletto Papa con il nome di Benedetto XVI. Il fumo è bianco, c'è il Papa. Annunzio vobis gaudium magnum, habemus Papam. I signori cardinali hanno eletto me, un semplice, umile lavoratore nella vigna del Signore. Ecco, Papa Ratzinger, habemus Papam, Franco. Ma mi dicevi però, habemus anche Sanremo? Habemus. Angelo, prenditi cura di lei. Lei non sa vedere al di là di quello che dà. L'ingenuità Francesco Renga, Angelo, che vince il Festival di Sanremo. Ecco, sono pochissimi gli ospiti musicali stranieri in questo 50° Festival della Canzone Italiana, condotto da Paolo Bonolis, che finalmente ce la fa, arriva ai microfoni di Sanremo, ha rispettato quello che era l'accordo dell'anno precedente, è affiancato da Antonella Clerici e Federica Fellini. Tornano i grandi ascolti, pensa che la media, Alessandria, delle 5 serate arriva quasi al 54% di share. Non male. Buono, perché è andato molto male l'anno prima, con picchi di ascolti di quasi 14 milioni. Quindi tornano gli spettatori e torna anche lui. Non sono stanco, è stato un errore pensarlo, ma ora lo ammetto, anche se sono lontano, non escludo il ritorno. E c'è il ritorno di Franco Califano con Non escludo il ritorno. Franchi, ma quello del 2005 è un festival che sarà ricordato anche per due notizie che irrompono prepotentemente sul palco dell'Ariston. La prima è questa. Bentornati amici telespettatori, bentornati e grazie per essere ancora in nostra compagnia. A 60 anni, mi dispiace, l'ho saputo adesso, darvi questa notizia e vorremmo che questa serata in qualche modo lo portasse in cielo, questa musica lo accompagnasse, scomparso Alberto Castagna. E a lui, voi e il mondo della televisione vuole, non so cosa dire ora, sono in imbarazzo, omaggiare la sua storia, la sua carriera, la sua vita e il suo entusiasmo con questo applauso. Ecco, il secondo episodio a rompere nel festival è la notizia della liberazione di Giuliana Sgrena. La giornalista del Manifesto era stata rapita a Baghdad il 4 febbraio e un mese dopo, il 4 marzo, viene liberata. Durante l'operazione, però, rimane ucciso il funzionario del SISMI, Nicola Calipari. A quel punto ho sentito una voce e mi diceva: sono Nicola, adesso sei libera, non temere. Lui mi ha detto: guarda, io mi siedo dietro vicino a te, così tu ti senti più sicura. E ha cominciato a parlarmi anche di persone comuni, persone, amici comuni. Mancano 700 metri, poi ci siamo. Lui aveva appena detto così quando ci ha colpito la prima raffica. Ci stanno sparando addosso. Io dicevo: ma chi ci sta sparando addosso? Gli spari arrivavano dalla sua parte, cioè da destra, e lui mi ha spinta giù. Io, per fortuna sono piccola, mi sono incastrata tra il sedile davanti e il sedile dietro dove ero seduta. E lui si è buttato sopra di me, evidentemente per proteggermi. E a un certo punto c'era l'autista davanti che continuava a urlare: siamo italiani, siamo dell'ambasciata italiana, così per cercare di farsi sentire, di fermare chi sparava. E Nicola, che prima parlava, mi raccontava un sacco di cose, a quel punto non ha parlato più. Ecco, era il ricordo di Giuliana Sgrena, di quei drammatici momenti della sua liberazione e della morte di Nicola Calipari. Ma sentiamo anche il ricordo di Gianni Letta ai funerali dell'agente del SISMI nel marzo del 2005. L'ultima sera, quando dovevamo prendere una certa decisione, eravamo incerti, dubbiosi, angosciati. E io ripetetti a lui quello che tante volte gli avevo detto: Nicola, parla tu, perché tu mi dai fiducia e sicurezza. Era proprio così, dava fiducia e sicurezza. Lascia che io sia il tuo brivido più grande, non andare via, accorciamo le distanze nelle lunghe attese tra di noi. Io non ho confuso mai braccia sconosciute con le tue. E parli e scherzi e ridi, ti siedi e poi mi escludi. Sento addosso sorrisi che conosco, sorrisi sulla pelle, quando eravamo terra e stelle. Adesso, se tu mi vuoi e se lo vuoi, lascia che io sia il tuo brivido più grande, non andare via. accorciamo le distanze nelle lunghe attese tra di noi. Io non ho confuso mai i tuoi pensieri, mi sfiorano, ti vengo incontro e più niente è importante. E se non vuoi, lascia che io sia il tuo brivido più grande, e non andare via, non sei più così distante. Quello che c'è stato tra di noi, io non l'ho confuso mai. I tuoi pensieri mi sfiorano, si arrende al presente. Mix 24, musica e storia. Bentornati su Mix 24 Musica e Storia, siamo nel 2005, io sono Alessandra Fiori e qui c'è lui ancora sempre. Sono Franco Schipani, ciao, bentrovati. Allora, prima del break abbiamo ascoltato Lascia che io sia di Neck e questa sottofondo è Lasciala andare, Irene Grandi. Ecco Franchi, ma oggi molta Italia, ma mi dici chi è il primo not Italian speaking, te lo dico così che so che ti piace, ospite delle nostre classifiche nel 2005? Darling, caro, ti dimmi. Farà molto piacere, perché al secondo posto con questo brano resta in classifica per più di un anno. Madonna, Hang Up, dall'album Confession on a Dance Floor, che gioca un po' a riprendere, come hai sentito, le citazioni, i campionamenti dei famosi brani. Quando gioca così degli non mi piace, anni 70, non ti piace? No. Perché no? Ma comunque, a io te sono non rimasta piace. Material Girl, va bene? Ah, va bene. Io comunque, rimango sempre a lì. A te non piace, però ad oggi è il singolo che ha venduto di più, pensa, 12 sì. milioni di copie, diventando così il singolo più venduto nella storia della cantante. Nel 2016, poi tanti anni più tardi, verrà eletto da Digital Spy come il più grande singolo del XXI secolo. Addirittura? Yes. Hai capito. Franchi, invece, sai che succede in Italia? In Italia tutto cambia, ma non cambia nulla, perché nell'aprile del 2005 si dimette il premier Silvio Berlusconi, ma due giorni dopo il presidente della Repubblica Ciampi gli dà un nuovo incarico. E anche gli Stati Uniti in questo 2005 vedono aprire l'anno con una riconferma. Ladies and gentlemen, it is my distinct honor to introduce the 43rd President of the United States, the Honorable George W. Bush. Vice President Cheney. Ecco, il 20 gennaio il presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, si insedia alla Casa Bianca per il suo secondo mandato. E non lo posso dimenticare quel perché? Giorno, perché ero a Washington, un sì. freddo, ma un freddo. Stavo facendo collegamento per quelli che è il calcio, con sì. Fazio, con Iachetti e Palantoni, e anche loro erano arrivati un po' con dei vestitini non proprio, ecco, da neve. E lo ricordo veramente... Per il freddo? Un freddissimo. Ma invece ti voglio raccontare un aneddoto. Vai. Allora, la voce che abbiamo sentito annunciare l'elezione del presidente è quella di Charles Brotman, che per oltre 6 decenni è stata la voce ufficiale della cerimonia di insediamento dei presidenti, quindi, non so, Eisenhower, Kennedy, Nixon, e poi all'età di 89 anni, con l'arrivo di Trump, sai che è successo? È stato licenziato. Esatto, esatto. Che cioè, novità! E lui sai che ha detto, mi aspettavo una pacca sulla spalla, e invece è arrivato un calcio nel sedere. Un signore. Perché con Trump può capitare. Succede. Che capita. E quindi Franky, riportaci in Italia. Cosa c'è di nuovo e di bello in questo 2005? Beh, ascolta. Tutto scorre, usami, straziami, strappami l'anima, fai di me quel che vuoi, tanto non cambia l'idea che ormai ho di te, verde coniglio dalle mille facce. Pesa la tua maschera di cera, tanto poi tu lo sai si scioglierà come fosse neve al sol, mentre tutto scorre. Usami, straziami, strappami. Antonella, Rachele e Alessandra, io non sapevo assolutamente che i Negramaro facessero questo effetto su di ma voi. Ma stai scherzando? Ma non sto scherzando. Tra l'altro andavano nel liceo della Caracciolo. Davvero? Eh sì. Ah, allora tutto si spiega. Ok. Però è un comunque sorrisetto che non capisco comunque. No, i Negramaro sono stati la rivelazione musicale dell'anno, quindi dobbiamo dirlo. Ok, va bene. E poi che altro hai però? Perché continui a sorridere? C'è qualcosa che non mi torna. Che cosa vuoi? Perché carale, come al solito, i tormentoni del 2005 non sono né in italiano e né tantomeno in inglese. Tengo la camicia nera, hoy mi amor está de luto, hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno. La camisa negra di Juanes, pensa che questo brano è stato contestatissimo quando è uscito perché avevano capito camisa negra, sai, un po' beh, fascista. Insomma, camicia nera. Però ho detto no, non era camicia negra perché sono fascista, ma perché ero in lutto. Ah, vabbè, allora è passata. Ecco, ma dai tuoi ritmi latini apprezzatissimi, torniamo in Europa perché dopo gli attentati di Madrid, in questo 2005, un'altra capitale europea viene pesantemente colpita dal terrorismo. Il 7 luglio a Londra, 4 esplosioni in metropolitana e su un autobus provocano 55 morti e 700 feriti. It's nothing more than just random moments in your life that you decide to move slightly to the right or slightly ahead or slightly to the left that change what happened to you that day. Ecco la voce di uno dei testimoni, un momento, un istante casuale della tua vita. Decidi di andare leggermente a destra o invece a sinistra e quella decisione cambia il corso della tua vita. The platform was packed full of people, almost I'd say 6 people deep. I made it in. Little did I know, at the same time, boarding as me, was the suicide bomber. Un'altra testimone, la banchina era piena di gente, c'erano almeno 6 file di persone, racconta. Ero riuscita ad entrare, poco potevo sapere che in quello stesso istante vicino a me ci fosse anche l'attentatore suicida. E poi ancora il 21 luglio altre 4 esplosioni a Londra, questa volta però nessun morto e un ferito grave. In un video di Al-Qaeda trasmesso da Al Jazeera, il braccio destro di Osama Bin Laden rivendicherà gli attentati del 7 luglio. E intanto però il terrorismo colpisce non solo in Europa, ma anche nelle località di vacanza di molti europei. Il 23 luglio del 2005 a Sharm el-Sheikh 5 esplosioni in un hotel e al mercato provocano 90 morti, tra cui 6 italiani e 200 feriti. On the radio, sing to me. If you think you're lonely, wait a minute, this is too deep. Too deep. I gotta change the station, so I turn the dial, trying to catch a break. Maggio, festa del lavoro e dei lavoratori. Ma in questo giorno sono ancora troppi quelli che il lavoro non ce l'hanno o addirittura hanno smesso di cercarlo. Cosa chiedere alle istituzioni e alle parti sociali? Com'è possibile conciliare le tutele di un lavoro duraturo e la flessibilità produttiva che la globalizzazione chiede alle imprese? Radio 24 affronta questi temi coinvolgendo esperti, rappresentanti di istituzioni, imprese e sindacati. Speciale primo maggio, come crisi e globalizzazione hanno cambiato il mondo del lavoro. Con Vincenzo Miglietta, alle 8:15 su Radio 24. Mix 24, musica e storia. Bentornati a Mix 24 Musica e Storia, io sono ancora Alessandra Fiori. E io sono Franco Schipani, ciao a tutti, bentrovati. Siamo ancora nel 2005, Franchi. Abbiamo ascoltato We Belong Together prima del break di Mariah Carey e questo è Since You've Been Gone di Kelly Clarkson, che sono due brani importanti del 2005 perché quello di Mariah Carey segna il suo ritorno dopo anni di crisi e ritorna al numero uno, ci rimane 14 settimane, mentre invece la Carlson ha cantato dal vivo, pensa agli MTV Awards e poi se nel 2005 si è aggiudicata un Grammy per la miglior performance femminile. Franky, ma siamo arrivati un po' all'estate del 2005 adesso e tu eri in America. Assolutamente. E in quell'anno l'uragano Katrina si abbatte sulle coste degli Stati Uniti provocando circa 10.000 morti e moltissimi danni in Louisiana, Mississippi, Alabama e Tennessee. Ma la città in assoluto più colpita è New Orleans. Ti ricordi? Ma mi ricordo anche perché a New Orleans ci sono stato tantissime volte sia per lavoro che per, proprio così, per divertimento. Ed è una città estremamente particolare. Tu, insomma, tu quando stai lì non ti rendi conto come fa a stare a galla quella città. A galla nel senso che è circondata d'acqua. Dico, ma qui può succedere qualcosa da un momento all'altro. Ti aspetti di tutto, meno che c'è uno storm di questo tipo, una tempesta di questo tipo che veramente ha creato dei disastri irreparabili. E comunque, lo sai, all'uragano e alla tragedia di New Orleans è dedicato un libro molto bello di Dave Eggers che si chiama Zeitun. Il libro è un documento tratto da una storia vera, quella di una persona, appunto, Zeitun, che nel 2005 abitava a New Orleans con la moglie. Quando sa che sta per arrivare l'uragano, li manda fuori, rimane a New Orleans, riesce a salvarsi uscendo dal secondo piano di casa sua e inizia a girare con la sua canoa, facendo il giro della città e aiutando chi poteva. Ecco, pensa che dopo qualche giorno lui viene arrestato, accusato di sciacallaggio e di terrorismo, e rimane recluso per svariato tempo senza possibilità di avere contatti con la sua famiglia. Questo era Daniel Potter, Bad Day, una brutta giornata veramente. Brutta, sì. Dunque, lui è un cantante canadese, questo è il primo singolo estratto dal suo secondo album, che è il più venduto dell'anno, penso, negli Stati Uniti, ed è arrivato proprio con il bullet, come si dice, nella Billboard Hot 100. E l'hai ridetto, eh? Quanto ti piace 100? Ma si dice così. Hai ragione. Intanto, Frankie, l'autunno italiano è segnato da un atroce omicidio, perché il 16 ottobre Francesco Fortugno, vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, viene ucciso da un sicario. Perché è stato ucciso suo marito? E ancora me lo sto chiedendo anch'io. Cercherò fino alla fine, fino a che avrò la possibilità. Verità e giustizia. Ecco, abbiamo sentito le parole della moglie. Nel 2012 la Corte di Cassazione conferma le condanne all'ergastolo di Giuseppe Marcianò come mandante dell'omicidio, Salvatore Ritorto, il killer del politico, e Domenico Audino. Annulla invece con rinvio per un nuovo processo di secondo grado la condanna di Alessandro Marcianò. E poi il 17 luglio del 2013 verrà confermata anche la condanna all'ergastolo per Alessandro Marcianò, reso definitivo poi nel luglio del 2014 dalla Cassazione. Non capiva che l'amavo, e ogni volta che soffriva io soffrivo. Quante notti ho pianto senza dire niente. Perché? Perché? Perché? Perché? Non capiva che l'amavo, e ogni volta che non c'era io morivo. Quante notti ho pianto senza fare niente. Non capiva che l'amavo, Paolo Meneguzzi, che è una bella novità di questo 2005, e poi ci sono le riconferme. E che mi piace tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Numero 3, Jovanotti. Tanto, ecco, tanto, tanto, non tanto, mi piace. Tanto, perché Jovanotti non ti piace? Beh, l'hai sentita. Dai. No, a me piace. Sono polemica oggi, perdonami. No, ma è bello. Invece, guarda, musicalmente, senti queste cose jazz che ci sono sotto. Sono molto belle. Jazz. Comunque, senti, Jovanotti è comunque un artista che ha ispirato un'intera schiera di giovani autori ed interpreti italiani. Ma, cara Ale, c'è ispirazione e c'è infatuazione. Vorrei cantare come Biagio Antonacci, vorrei pesare come Biagio Antonacci, firmare autografi alle fan, riempire palasport e fare quel che fa Biagio Antonacci. Vorrei vestirmi come Biagio Antonacci, vorrei convivere con Biagio Antonacci. Se fin da piccolo il mio mito era Jim Morrison con Rambo Rocky, adesso è solo Biagio Antonacci. Godo della stima dei miei simili e per quanto sia nostalgico non sono stato mai da Paolo Limiti. I limiti che ho li riconosco, sono cappuccetto rosso perso in questi sottoboschi artistici. Credici, mi dico, vorrei cantare come Biagio Antonacci, questo Simone Cristicchi, questo ha fatto una prova, ha detto io canto questo pezzo, dopodiché se non ce la faccio, perché mi stanno deludendo tutti, di case discografiche, manager, mi ritiro e faccio un'altra cosa. E invece, facendo proprio questa parodia di Biagio Antonacci, ha avuto successo. E allora ti dico che in questo caso io preferisco l'infatuazione all'ispirazione. Ma comunque è diventato il tormentone del 2005, divertente, molto divertente. È il tormento estivo anche allora. Assolutamente. E allora ti ricordo un fatto che ha tormentato l'estate del 2005, che ha molto colpito l'opinione pubblica, perché a Genova 80 bagnanti vengono e rimangono intossicati da un'alga tossica, appunto. E sempre in estate, a giugno, 20 persone rimangono intossicate in un incendio nel tunnel del Fréjus e purtroppo ci sono anche due morti. Ladies and gentlemen, the Rolling Stones con Streets of Love. Eccolo. È un po' che non li sentivamo, Frankie. Non li sentiamo perché noi, sai, facciamo le classifiche guardando un po' ai singles, che non possiamo fare le classifiche degli album, delle tendenze, dei nuovi fenomeni aggreganti. Cioè, noi dobbiamo attenerci un po' a quello che sono le classifiche dei dischi, dei motivi più venduti. Quindi ci regoliamo di conseguenza. Quindi adesso restiamo in Inghilterra e poi magari una puntatina in Irlanda. Let there be love. Let there be love. Let there be love. Let there be Let There Be Love, gli Oasis e All Because of You degli U2, che dobbiamo ricordare perché hanno fatto un video meraviglioso. Quale? Ti ricordi i Beatles che hanno fatto, loro lo facevano sul terrazzo dell'Apple Studio, o altri cantanti che lo facevano nei metropolitani? Loro no, hanno detto prendiamo un autobus, ci mettiamo a bordo, ci facciamo un giro della città. Lo sai, non lo ricordo, però carino. Ma troppo divertente, grande idea per gli U2 con All Because of You. All Because of You, una buona notizia del 2005, Frankie, finalmente. Lo abbiamo raccontato, nel 2004 era entrata in vigore la legge che proibiva il fumo nei locali pubblici. In questo 2005, per la prima volta in Italia, l'ETI, l'ente tabacchi italiani, dovrà rimborsare con 200.000 euro e altri 20.000 euro di spese legali il figlio e la moglie di Mario Stalteri, morto di tumore al polmone provocato dal fumo, quindi una sentenza storica. E ci sarà poesia anche per me, Elisa. Mi piace Elisa, te? Molto. Bravissima Elisa. Franchi, 2005, a 80 anni, a Milano, muore Don Luigi Giussani. Lui aveva fondato il movimento di comunione e liberazione. Don Giussani è un uomo fuori dal comune. Cioè, io reputo che sia in un certo senso il Don Bosco dei nostri tempi. Cioè, è un genio dell'educazione cristiana, ma dell'educazione. Ecco, un genio dell'educazione nel ricordo dell'arcivescovo Angelo Scola. E nell'aprile del 2005 muore anche il sovrano più vecchio d'Europa, Ranieri III di Monaco. Alessandra, dimmi. A 72 anni ci lascia anche un grande cantante. Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero. Per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole un fiore. Ovviamente stiamo parlando del grandissimo, immenso Sergio Endrigo. Io adoro questa canzone, me la cantava sempre la mia mamma. Ah, sì, lo sai, sempre sempre la mia mamma. Comunque questo 2005 è anche un anno di matrimoni che pesano in qualche modo, a partire da quello tra il principe Carlo che sposa Camilla Parker Bowles. Quando dici pesano vuol dire che sono pesanti? Ma è anche beh, per definizione un po' è così, no, il matrimonio ha un peso. Scusa, diciamo. Sì, sì. Sì. No, te la concedo questa. Ma il più seguito di tutti tra questi matrimoni che pesano, anche perché è trasmesso in diretta Sky, è questo. Ed è tutto pronto o quasi, anche all'interno della chiesa. Non sappiamo quanti saranno gli spettatori previsti qua in Piazza del Campidoglio. Oggi si sposano due ragazzi, ma sono due ragazzi molto speciali. La vita li ha resi i veri protagonisti dei nostri tempi. Prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, e di amarti e onorarti tutti i giorni la mia vita. Scusa Alessandra, ma puoi mettere Francesco Totti e Ilary Blasi con Carlo che sposa Camilla? Ma non c'è proprio. Ma guarda che Carlo e Camilla hanno diviso il mondo femminile, c'è stata un'amplissima discussione non oggi. Non conosco il mondo la femminile tuo. Per esempio, che è dice pro la Caracci? Camilla dice: sì. Ma quella è la donna della sua vita. Ti eh? Tolgo il saluto per tutto il weekend. Hai capito? Per ragazzo, questo è successo. Comunque, cioè, sì, sono d'accordo. Cioè, questi sono Diana i matrimoni. E Camilla, cioè, con tutto no, il rispetto. Diana e Ilary. No, sto parlando della prima moglie di Carlo, capito? Perché Ilary non si tocca, è la moglie del capitano. Comunque, senti, dopo Francesco Totti e Ilary Blasi, il 9 luglio è la volta di Stefano Ricucci e Anna Falchi. E pochi giorni prima l'imprenditore Ricucci aveva cominciato la scalata RCS e il 31 agosto verrà indagato per aggiottaggio proprio per questa scalata. Insomma, lui non ha una buona luna di miele, Franchi. No, assolutamente. No. Ma tu ti sei sposato nel 2005, no? Sai com'è? Nel 2005 no, mi no, sono sposato l'ultima volta negli anni 90, il terzo matrimonio del 90, sì, sì, dopodiché... Single dal 2 giugno tutti 1994. Ma tutti errori di gioventù. No, no, donne meravigliose. Non rimpiango neanche un'ora del tempo che ho speso con tutte le mie mogli. Questo non è vero, l'ha detto no, solo perché lo doveva no, dire. Va bene, ma non è vero, Franchi. Quindi nel 2005 ci manca, però sicuramente è qualcosa che non possiamo farci mancare. Qualcos'è? Non lo so, che cos'è? Manca qualcosa? Dobbiamo farci mancare qualche cosa in questo 2005? Sì, questa. Big City Life, mi c'è. E su Big City Life dei Matt Frick siamo tutti quanti d'accordo. Beh sì, ci piace questa. Assolutamente. Comunque lo sai che il 2005 è un grandissimo anno anche per le serie TV, ne continuano a nascere moltissime, ma soprattutto questa. Ha mentito. Non sono fuori dal nostro rapporto. Ci sono dentro, talmente tanto che sono umiliata perché sono qui a supplicare. Meredith, sta zitto. Tu dici Meredith e io urlo, l'hai dimenticato? Sì. Ok. Ecco qui. La tua scelta è semplice. Lei o me. Io sono sicura che lei è una gran donna. Ma vedi, io ti amo. Cerco di amare i tuoi gusti musicali. Ti lascio l'ultimo pezzo di torta. E ciò che mi porta a odiarti mi spinge ad amarti. Per cui prendi me. Scegli me. Ama me. Ecco, Franchi, non fare così l'indifferente. Ma come abbiamo parlato dei miei matrimoni, mi fai sentire subito questa cosa. Ma senti che discorso, Grey's Anatomy, i medici di Seattle, bellissimi, sì, bravissimi. Adesso pensa che è arrivata alla 13ª stagione. E senti il dialogo di Meredith, Ellen Pompeo, che scegli me. Brava. No, veramente ha detto scegli me. Esatto. Oddio, scegli me. In realtà brava. Ha detto così. Però l'ha detto, brava, complimenti. Peccato che lui abbia scelto l'altra. Tu avresti scelto mai l'altra dopo un discorso del genere, Franchi? Non lo so, dovrei conoscerla meglio. Ecco, dovrei conoscerla meglio. Ecco, dopo però, questa passiamo insomma, ai film, per ecco, favore. Meglio. Chi disse preferisco avere fortuna che talento, percepì l'essenza della vita. La gente ha paura di ammettere quanto conti la fortuna nella vita. Terrorizza pensare che sia così fuori controllo. A volte in una partita la palla colpisce il nastro e per un attimo può andare oltre o tornare indietro. Con un po' di fortuna va oltre e allora si vince. Oppure no, e allora si perde. Ecco, Match Point, Woody Allen, meraviglioso, Franky. Quell'attimo di sospensione che tutto decide. Franky, sai come si chiama? Assolutamente no. No, no, lo sai, ma non lo dire. No, no, no. Tu sai che ho fatto un provino io con Woody Allen? Tu? Nel 1980. Franky, questa mi mancava. Sono andato e ho fatto un provino, però io credevo che fosse un provino per HBO, quindi dovevo fare la voce di un appassionato di macchine. Hai fatto con un l'accento... provino voce o video? No, video con lui davanti. Lo voglio. Ma io mi sono messo lì perché non sapevo di cosa dovevo parlare. Devi parlare di un italiano che è appassionato della macchina, la sua macchina, con l'accento proprio italiano, inglese, e devi far finta che questa macchina sia la tua donna, che era facilissimo. Era una cosa semplicissima. Però io non avevo capito che era un provino. Ah, e quindi? No, non l'hai fatta bene. Mi hai mai visto in un film di Woody Allen? No, Franky. E allora non è andato bene. Sam, sei tu Sam in realtà. Magari. Senti, Franky, poi nel 2005 esce anche un film che ha fatto un vero scandalo. C'è qualcosa di interessante sul cielo? Recitavo una preghiera di ringraziamento. Per cosa? Perché hai lasciato a casa l'armonica. Senti che pace, che silenzio. Se volessimo potrebbe essere così. Esattamente così, per sempre. Sì, dimmi come. Se comprassimo un po' di terra, una cosa piccola, non so. Un allevamento di bovini, potremmo vivere bene. Te l'ho già spiegato. Non potrà mai essere così. Il fatto è che se noi due stiamo insieme e questa cosa ci capita di nuovo, nel momento sbagliato o nel posto sbagliato, siamo morti. Ecco, naturalmente sono i cowboy gay di Ang Lee, bellissimi, hai presente, no? Sì, ma io non capisco dove è lo scandalo. Ragazzi, questi sono cowboy, sono tanti, sui cavalli, vanno in giro con delle mandrie. Non si capisce perché. Delle mandrie enormi, avete visto i film? Si fanno dei viaggi di 8-9 mesi. Ma sono due da soli, ma Franky. No, ma parlo del gruppo cowboy, qualcosa deve succedere. Ah, questi ragazzi, 9-10 mesi, con tutte queste vacche in giro, cioè, non incontrano donne, sono perduti nelle stelle, nelle foreste. No, loro comunque sono bellissimi e soprattutto innamoratissimi. Sì, però non ci stupiamo di queste cose. Beh, no, non è che ci stupiamo, il film ha creato scalpore a Venezia. E ha vinto il Leone d'Oro. Comunque intanto in TV arriva anche una trasmissione che conquista quasi tutti e che inaugura proprio un nuovo modo di dire, un tormentone che diventa un intercalare. Senti qua. Gli intellettuali da salotto sono lenti, gli operai, i meccanici e i tassisti sono rock. I vecchi e i loro ricordi sono rock. Chi li dimentica è lento. Collina è rock. Chi regala i Rolex agli arbitri è lento. Quelli che tirano i sassi dal cavalcavia sono lenti. Sono contro l'amicizia. E fra di loro non sono amici. Il Papa è hard rock. L'arroganza è lenta. La timidezza è rock. Sono rock. Franco è rock. Ah, l'ha detto Chiappini. Hai capito? L'ha detto Chiappini. Grazie. Comunque, Ale, grazie. Naturalmente è Rock Politique, il programma di Adriano Celentano in onda sul Rai 1, che fa più del 47% di share. E lo vedi, Franky, lo dice anche Celentano, che i gay sono rock. Ce lo dice Celentano. Esatto. E in questo 2005 il Parlamento spagnolo approva la legge sui matrimoni e sulle adozioni gay. Intanto però nasce anche una nuova televisione in questo 2005. Giusto, Franky? Assolutamente, perché a febbraio arriva YouTube. Uh-huh. Viene pubblicato il primo video che si chiama Me at the Zoo. Bruttino, devo dire. È insignificante, dura solo 18 secondi. Però esiste, è ufficialmente il primo. 38 milioni, esatto, di visualizzazioni. Quindi è un'altra rivoluzione. E nello sport, invece, c'è un'altra riconferma, perché la Juve vince un altro scudetto, che però questa volta le verrà revocato. Pensa che per il 2005 resterà non assegnato. Intanto Asafa Powell, 22 anni, giamaicano, è l'uomo più veloce del mondo. Ad Atene ha stabilito il nuovo record dei 100 metri con 9,77. E poi, sempre nel 2005 c'è lui. È oro, è medaglia d'oro per Filippo, ma non è vero, è una cosa che fa, che fa veramente bene. Campione del mondo. Non ci credo. Io sì, io sì. Questa è la vittoria più incredibile degli ultimi anni. Straordinario, Pippo Magnini, 48-12, campione del mondo. Record dei campionati, ecco, del mondo. Filippo Magnini conquista l'oro a Montreal, ma ti voglio dire che c'è un certo tifo in regia non per lui, perché non è solo l'uomo, l'ex fidanzato della Pellegrini, è Filippo Magnini. Ragazzi, non è una Magnini. Cosa così. Completamente inaspettata questa vittoria, bellissima, bellissima, stupenda. Ma siamo agli sgoccioli anche di questo 2005, Franky, e come sempre noi che facciamo? Che facciamo? Però devo dire che ultimamente mi trovate d'accordo, perché Antonella Migliaccio, da quando c'è l'influenza della Caracciolo, poi con questa consulenza di Chiappini, trovano sempre il pezzo giusto. Io difendo a spada tratta la Fai Migliaccio. Bene. No, ma anche io. Guarda, mi ha convinto. Mi ha convinto. Sono 7-8 puntate che non ne sbaglia uno. Allora va bene, senti, Franco, hai già citato la canzone tanto, quella di Jovanotti, questo grande successo del 2005, e dallo stesso album Buon Sangue, il sedicesimo di Jovanotti, ce n'è un'altra, una che è forse una delle sue più poetiche. E infatti vi salutiamo con questa scelta di Antonella Migliaccio. Che c'è? Antonella Migliaccio, mi fido di te. Ah, allora venerdì prossimo con il 2006. Ciao a tutti, ciao, ciao, ciao, ciao. Case di pane, riunioni di rane, vecchie che ballano nelle Cadillac, muscoli d'oro, corone d'alloro, canzoni d'amore per bimbi col frac, musica seria, luce che varia, pioggia che cade, vita che scorre, cani randagi, cammelli remaci, forse fa male eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù, la vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te. Io mi fido di te, ehi, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere?